America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. La tradizionale musica degli Oscar, beh, cominciamo a sentirla adesso, la risentiremo il 2 marzo quando ci sarà la Notte delle Stelle. All'inizio della settimana vi ho raccontato dei Golden Globe e siamo arrivati alle nomination per gli Oscar, direi più o meno erano quelle che ci si aspettava, non ci sono grosse sorprese. Devo dire, una sorpresa per me un pochino c'è, perché Robert Redford, pensate, questo straordinario, grandissimo attore, un grande mito americano, non ha mai vinto un Oscar in tutta la sua carriera e ormai, insomma, diciamolo, a qualche annetto. Ecco, in questa sua performance nel film All Is Lost, dove è da solo in questa barca, quindi da solo regge la scena praticamente per tutto il film e ha un'interpretazione straordinaria, ecco, io credo che una nomination almeno l'avrebbe meritata come migliore attore. E allora vediamo chi sono i migliori attori protagonisti. Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club, sicuramente molto bravo, ha perso una gran quantità di chili per interpretare questo ruolo. Chiwetel Ejiofor per 12 anni schiavo, di nuovo molto bravo, ma insomma non più bravo degli altri secondo me. Leonardo DiCaprio, bravissimo, Wolf of Wall Street, Bruce Dern in Nebraska e Christian Bale per American Hustle. Ecco, Christian Bale è stato anche lui davvero molto bravo, però secondo me, insomma, uno spazietto per Robert Redford forse lo potevano trovare. Altre nomination, miglior film in lingua straniera, beh, c'è La grande bellezza di Paolo Sorrentino, c'è anche The Broken Circle Breakdown di Felix Van Groningen, Il sospetto, The Hunt di Thomas Vitenberg, The Missing Picture of Rithi Pan, Omar di Ani Abu Assad. Ecco, speriamo, io credo che Paolo Sorrentino, La grande bellezza, possa avere delle chance. Chi ha avuto le principali nomination? Gravity, la storia di questa esplorazione spaziale andata male, 10 nomination, 10 nomination per American Hustle. La mia scelta, devo dire, è per American Hustle. 9 nomination, 12 anni schiavo, 6 nomination per Dallas Buyers Club, Nebraska, Captain Phillip, 5 nomination per Her e The Wolf of Wall Street. E intanto invece voglio raccontarvi di una performance straordinaria che ho seguito ieri nel dettaglio di Ben Bernanke in uno dei suoi primi grandi addii alla guida della Federal Reserve che ha dominato negli ultimi 8 anni. It's my nature, I think, to kind of focus on the problem, you know, and I was so absorbed in what was happening and trying to find response. Ben Bernanke ha parlato alla Brookings Institution e si è aperto. Credo che sia la prima volta che lo abbiamo sentito parlare in modo non circospetto, parlare con il cuore in mano, e gli chiedono: ma insomma, ma tu, caro Bernanke, sei il Buddha, ti chiamano il Buddha perché sei sempre assolutamente controllato, pacifico, tranquillo, sei il banchiere centrale tranquillo per eccellenza. Ma come è andata a finire? Com'erano davvero i momenti più difficili di questa crisi del 2007-2009? Insomma, dormivi bene o no? E Bernanke confessa: ho passato notti insonni, soprattutto negli ultimi 4 mesi del 2008, ma dice e ci dà questa descrizione straordinaria di come viveva questo momento di crisi dopo il fallimento di Lehman, quando IG sembrava dovesser fallire, quando si è ridisegnata la mappa della finanza americana, quando Freddie Mac e Fannie Mae, i due grandi assicuratori dei mutui americani, anche loro si sono trovati in stato fallimentare, sembrava che potesse precipitare in un buco nero. E dunque ci dà questa descrizione Bernanke, dice: credo di essermi sentito un po' come un guidatore che si trova a guidare, all'improvviso la macchina sbanda e sta per cadere nel fiume da un ponte. Allora manovra, cerca immediatamente di reagire, non ha neanche il tempo di pensare. Azione, reazione, si salva, rimette la macchina in carreggiata e solo dopo, quando è più tranquillo, dice: oh mio Dio, ma che cosa abbiamo rischiato? So, dice, che abbiamo fatto la cosa giusta. Il governatore della Fed poi entra in 2 o 3 tematiche molto importanti. La prima, la più delicata e quella di maggiore interesse anche per il mercato, riguarda l'adozione della politica del quantitative easing. È stato molto criticato anche da noi in Italia, alcuni esperti di politica monetaria ingiustamente, e aggiungo forse senza la necessaria cognizione di causa, lo hanno attaccato duramente. Però Bernanke, devo dire, esce da questa sua esperienza a testa alta e spiega qual è l'impatto del QE, del quantitative easing, di cui abbiamo parlato lungamente anche in questa trasmissione. La prima cosa che dice: non è un approccio nuovo, è stato usato in varie forme altre volte, quindi chi mi ha accusato che io entravo in un territorio inesplorato ha sbagliato, perché è stato utilizzato come strumento più volte. Rischi impliciti. Dice, due di questi pericoli, secondo me, sono del tutto irrilevanti. Il primo era un timore per l'iperinflazione. Tutti mi attaccavano, dicevano che avrei generato inflazione a non finire. L'inflazione non c'è. Ieri sono stati comunicati i prezzi al consumo per dicembre, più 0,3%, quindi siamo assolutamente in linea con le stime e soprattutto con quelle stime prudenziali della Fed. Segnali di inflazione per ora non ce ne sono. È stato accusato di rischiare i quattrini del contribuente americano, perché acquistando i titoli col quantitative easing sul mercato rischiava di perdere denaro su questi titoli. In realtà, dice Bernanke, noi abbiamo guadagnato su questi titoli e con questi guadagni abbiamo ripianato una parte del disavanzo americano, quindi abbiamo aiutato non soltanto la crescita dell'economia, ma abbiamo contribuito a rimettere a posto il disavanzo pubblico. Un punto c'è su cui Bernanke ammette che poteva esserci un rischio, un pericolo o comunque una preoccupazione, ed è quello della creazione di una nuova bolla, nel senso che con denaro molto facile la gente tende poi a comprare senza preoccuparsi troppo se il prezzo a cui acquista è un prezzo reale o meno. Però gli studi ci hanno poi confermato che in realtà la congruità dei prezzi c'è. In questo momento il problema non si pone, e dice: devo essere scaramantico, perché poi nel momento in cui lo dico magari poi succede qualche cosa, va sempre a finire così. Però in questo momento non succede, ma abbiamo strumenti a sufficienza per monitorare la situazione e giocare d'anticipo nel caso ce ne sia bisogno. Dunque, un messaggio rassicurante: abbiamo raccolto le preoccupazioni sulla bolla, ma la bolla in questo momento non c'è. Infine, le mille difficoltà. Infine, un messaggio per il futuro: che la Fed mantenga la sua indipendenza, e soprattutto un ricordo che si è cristallizzato ieri così nell'immaginario collettivo degli americani, perché ha raccontato, parlando delle difficoltà di gestire questo equilibrio fra autonomia della Fed e politici che invece volevano controllare e gestire loro la Fed e quindi interferire, ha raccontato un episodio straordinario. Dice: dovevamo passare il TARP, era uno dei momenti più difficili, avevamo bisogno di un appoggio fiscale. Il TARP, lo ricorderete, era quel pacchetto di aiuti, quindi un appoggio fiscale oltre a quello monetario per le istituzioni finanziarie. E ho parlato con un senatore dicendogli: insomma, dateci una mano, passatelo, è importante per la nazione, per il paese. E il senatore gli risponde che cosa? Gli risponde: dice, caro governatore, dice, io ho anche la mia base elettorale nel mio collegio e abbiamo fatto un piccolo sondaggio. Dice: devo dirle che il 50% di quelli che abbiamo interpellato ci ha detto di no, che non vogliono il TARP. L'altro 50% ci ha detto assolutamente no, non se ne parla neppure. E dunque Bernanke, quando ha raccontato questa cosa, così descrivendo proprio il senso del politico che non si preoccupa di quella che è la sua missione al di là del soddisfare la sua base elettorale, ha riuscito a far ridere la sala e a inviare allo stesso tempo un messaggio molto serio sulla responsabilità dei politici, che, ha detto, hanno sbagliato soprattutto quando hanno cominciato a litigare sul tetto, sul debito e sul rinnovo del bilancio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alle canzoni del giorno. Abbiamo avuto la nomination degli Oscar, nei prossimi giorni ve ne farò ascoltare alcune di quelle che sono state nominate. Vi propongo oggi dal film Hair, Carrie No, The Moon Song. My dear, I'll be there soon. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.